fa, lo spillo si è ficcato in testa. Ora non ci resta che far questa metrica funesta. Lirica indefessa t'entra in testa, psichica sconnessa non s'arresta. In sesta, sopra ogni strada, in festa, tipo la malaria. Aria bassa, coprila con metrica mastella che dilania. La bagassa tu di tua sorella chi mi odia. Smania di trovare dischi senza prendere la Tirrenia. Odia, gioca, odia fare questo in più si tedia. Studia, studia ma sa pure che studiare non rimedia. L'insoddisfazione che si insedia. Pressa la sua testa, stressa la sua testa, eia. Ogni male vanno in cuta a capo un'astronave. Non riesco a parlare, non riesco a sentire né a guardare. Sono in alto mare, voglio vivere in un mondo che si può cambiare. Meglio scrivere le rime che lasciare stare. L'acidità è perché c'ho acidità di stomaco. La cecità dei sassaresi è solo un pezzo scenico. Nel teatro della vita che conduco è schizofrenico. Inizio un'altra manche ed io non gioco. La chance che avevo l'ho giocata in questo. Pensa quanti scleri metto per sfornare un testo. Ogni giorno al Mary, come in ogni posto. Nulla è mai cambiato, ti conosco. Solo è migliorato un poco il gusto. Solo adesso molta gente sta scavando dentro il fusto. Cotanza double three distraction, trepidanza inconsueta, trapananza tipo ventunation. Magniloquenza, frapostasi con insistenza. Lo porto fuori di tamburlana scorto. Odore di acro, odore di esperta sporto. In parti del mio corpo dove verton. Vibrazione aperta, mutazione avverto. Sensazioni folcloristiche, alienazioni mistiche. Relazioni liriche, sensazioni chimiche, satiriche. Roboanza susta, assonanza acustica. Fuori tempo ma comunque giusta. Tracotanza mista alla mia vista. Questa crusca in testa mi sta pasta scotta che non mi soddisfa. Busca questa demo, gusta questa demo. Busca questa demo, gusta questa demo. Busca questa demo, gusta questa demo. Busca questa demo, gusta questa demo. Oh, oh, oh.